sta. Io sono un gatto mite, odio la crudeltà. È giunto il tempo che tu impari a cacciare. La mamma gatta gli dice ogni giorno. E là c'è un topo che sembra zoppicare. Per questo in pace io lo lascerò. Non fartelo scappare, non fartelo scappare. È un essere vivente ed io lo devo rispettare. Ricorda che nel cuore tu sei un predatore. Lui non m'ha fatto niente, niente io gli farò. Se in casa non si è utili ci cacceranno via. Ma non se gli faremo compagnia. Servire i croccantini. Da sempre ogni gatto, se un topo è un po' distratto, partirà all'attacco e lo rincorrerà. Da sempre ogni ratto, sapendo questo fatto, fugge come un matto appena lo vedrà. Ma c'è Anacleto che dice io no, a questo gioco assurdo non parteciperò. C'è un'altra preda, stai pronto ad attaccare. La mamma gatta lo porta in giardino. È un canarino che non può più volare. Per questo in pace io lo lascerò. Non fartelo scappare, non fartelo scappare. Non vedi a un'ala rotta dove vuoi che possa andare. Ricorda che nel cuore tu sei un predatore. La voce dell'istinto non asseconderò. Se in casa non si è utili ci cacceranno via. Ma non se vi portiamo l'allegria. È il tempo d'ora in poi, come lo ingannerai? Inseguirò il gomitolo di lana. Se a caccia non andrai, che cosa mangerai? Mi adatterò una dieta più vegana. Un tempo tutti i gatti vivevano nei boschi, gli usignoli e ratti facevano razzia. Ma oggi son cambiati, si son civilizzati, nelle nostre case ora vivono felici, con tutta la loro esuberanza e simpatia. Giocano con noi e ci fanno.